perché quelle sono le spese che devono durare tutto l'anno. Il problema sta nella rendicontazione. Allora, momentaneamente avevamo pensato a una rendicontazione semestrale. Questo significa che alla fine dei sei mesi vengono rendicontate tutte le spese. Se di 3.000 avete speso 2.800 euro, noi rifacciamo il mandato per 2.800 euro, reintegriamo il fondo e si continua così. Quindi non è legato, diciamo, alla possibilità di fare spese superiori o inferiori ai 3.000 euro. Poi, nel caso in cui ci siano, tra virgolette, spese eccezionali o dove materialmente una biblioteca non riesce ad arrivare alla fine dei sei mesi, si studierà una rendicontazione più corta, cioè a 3 mesi, e quindi il reintegro ci sarà prima. Adesso siamo nel primo anno di questa nuova gestione, quindi, come dire, le scadenze le tagliamo adesso sul momento. Momentaneamente diamo come scadenza 6 mesi. Poi chi vede che ha problemi, ci sentiamo, e alcune biblioteche dovranno fare la rendicontazione ogni 3 mesi e altre ogni 6 mesi. Questo lo dico anche per comodità, perché per quanto mi riguarda si potrebbe pure fare la rendicontazione mensile, ma diventa troppo pesante. Troppo pesante perché? Perché comunque abbiamo il discorso degli incassi. E lì vi chiedo, diciamo, per quanto possibile, il rispetto di determinate scadenze. Perché? Ma non è tanto per noi, perché voi considerate che a noi poi dopo c'è la pressione da parte della Ragioneria Generale che deve fare materialmente la comunicazione dei dati IVA, e su quello c'è poco da discutere, nel senso che se a noi ci obbligano entro il 3 di fornire i dati dell'IVA, noi entro il 3 dobbiamo essere pronti. Giusto, molti mi hanno posto il problema che adesso non si tratta più della semplice dichiarazione ma anche della consegna dei soldi, quindi molte biblioteche in effetti dovranno viaggiare con soldi, e questo, diciamo, adesso vediamo un attimo come poterci organizzare. Innanzitutto abbiamo fatto una verifica e siamo da un punto di vista assicurativo coperti fino a 4.000 euro. Quindi altra questione, appunto, che devono tenere presente tutti i responsabili, è se c'è una copertura fino a 4.000 euro, fare in modo che comunque i nostri fondi cassa non vadano a superare. Poi certo che si studierà, poi attraverso una serie di segnalazioni studieremo magari per alcuni casi particolari un importo sulla soltanto per la presenza in biblioteca o anche per il trasporto addosso? Anche per il trasporto. Per il trasporto. Fino a 4. Il limite è 4.000 euro. Sì, ma non c'è possibilità di pensare a un conto corrente? Dunque, la soluzione migliore erano, avevamo visto una specie di carta di credito con il IBAN, che era il massimo, perché voi praticamente potete fare con questa carta di credito. Il problema è che non le rilasciano a nome dell'istituzione, ma devono essere nominati. E questo, diciamo, dal punto di vista normativo non è possibile, perché non può essere personalizzato. Quello sarebbe stato perfetto, perché non avete né problema di portare i soldi né di rendicontazione, perché io la rendicontazione la vedevo direttamente. C'è un'altra cosa, dal Dipartimento delle Entrate da tempo mi hanno detto che hanno fatto una sorta di gara per il bancomat. E questi banchi, pare che ne sono stati previsti una quarantina per noi. Però pure lì bisogna un attimo capire. Primo, io non so, questo ditemelo voi, la presenza di un bancomat a noi quanto può risolvere il problema? Perché io so che magari gente che per 10 euro non si mette a fare bancomat, viene direttamente lì con i soldi contanti. Quindi, ma tu parli degli incassi bibliografici? Incassi bibliografici. Quindi... Beh, ma il problema è lì, perché voglio dire, il fondo che voi avete ce l'avete in cassaforte, quindi certo. Il fondo voi lo gestite lì e rimane lì. Il fondo non se lo possiamo avere sul banco, ma no, deve essere nominato. No, il banco è proprio per pagare le figure, perché quello, se l'eccesso di quell'operazione significava per voi un costo. Ce lo fornivano loro. Però certo, questo poteva, credo, essere utile se magari, che ne so, il 90% degli incassi avveniva tramite post. Quindi noi avevamo il rendiconto online, lì c'era un'altra, vabbè, poi dopo si studiava meglio la procedura amministrativa, perché non potete capire per incassare quei soldi che online, però online, esatto. Ma io considerate che io adesso sto facendo l'accertamento di tutti gli incassi online del 2016 e devo ancora incassare il 2015, quindi insomma, vabbè, però quello diciamo poi diventa un problema nostro interno. Questo sicuramente comportava un vantaggio per noi, o meglio per voi, perché non eravate più costretti a portare, che ne so, tutti i soldi qui, insomma, appunto. Però non so quanto a voi risolva il problema, perché io non so quanta gente che deve pagare magari 10 euro fa il banco. Non lo so, questo però. Premesso che se loro, se è vero quello che ce l'hanno assegnato e ce li danno, ovviamente noi li prendiamo. Non è. Io sono sincera, se mi dicono posso pagare il banco, io dico se può pagare, perché? Perché so che questi col banco, con online non si vedono più, perlomeno dal 14, quando è che. Quindi se posso adesso devi cambiare logica. La logica se i soldi vengono incassati dall'istituzione, se no non la gamba, non è incassato. Il problema non è incassati o no, quello è fuori discussione, perché c'è un rendiconto online. Sono problemi di procedura e di tempi, vabbè, ma quello è un problema nostro interno da qua. Cioè che dobbiamo... No, ma quello no. È ovvio che se veniamo dotati tutti di POS, io vi pregherei di come dire, promuovere al massimo, incentivare al massimo questo tipo di incassi. Ma lo dico pure per voi, perché altro problema. Altro problema normativo, pure nella gestione dei fondi, è stato quello di praticamente tirarvi fuori tutti i responsabili da una possibile diciamo, accostamento alla figura dell'economo. Perché? Perché di fatto voi, siccome siete soggetti che gestite dei fondi, potreste essere assimilati all'economo, e questo era assolutamente da evitare, anche come gerente economo o roba del genere. Da evitare perché? Perché la figura di economo poi dopo è soggetta a delle rendicontazioni, cioè diventa un problema enorme. Quindi diciamo che allo stato attuale la semplificazione che siamo riusciti ad adottare è stata quella, innanzitutto separare le due questioni. Primo, perché la gestione dell'incasso diretto è fuori legge, ma lo è sempre stato, questo è il problema. Ecco perché ritorno a dire, stiamo cercando di chiudere il più possibile il 2016 come vecchia storia e entriamo, diciamo, nella nuova fase. Ma i musei come fanno, i musei comunali? I musei comunali? Consegnano i soldi. Apposta li hanno fatti gratuiti, una parte di quelli. Di fatto, non hanno dato la rendicontazione. Il pubblico non può essere gestito poi dopo direttamente da responsabile. Tutti, no? Pilotti, Napoleone. Però proprio di norma non può essere fatto. Ci deve essere un'entrata, l'agente contabile, ma sarebbe quello di riscossione, ma se non ce l'abbiamo, sì, riscossione, ma non gestione, che è diversa. No, appunto, per quanto si stima, ma risolverebbe tutto, perché potrebbe essere qualcuno che gira, quello che gira, il corriere, no, proprio si chiama così, sì, quello però sì, dipende. Quando gli importi sono particolarmente elevati, noi adesso con la rendicontazione che abbiamo fatto generale. Quanto abbiamo incassato tutto l'anno 2016? Una curiosità. Noi adesso così a occhio stiamo sui 100.000 euro. No, più di 200.000. Più di 200.000. Avete fatto capire? Beh, buono. Avete da 20 euro, avete fatto paperoni. No, però a maggior ragione, siccome ripeto, voi poi non lo dovete pensare soltanto al vostro singolo fondo, voi considerate che per esempio facendo la divisione dei fondi minimo su 100.000 euro, voi capite che arrivano i revisori dei fondi, certo, e vedono 100.000, perché di fatto per loro quei 100-150 sono 150.000 euro che stanno fuori, certo. E per loro è impensabile. Impensabile. Una cassa con tanti dei 150.000 è una cosa fuori. Eppure pericoloso, ma infatti. Poi dopo loro cercano di spiegare, sì, ma sono piccoli fondi. Sì, a cognome si spende valide, non ha un senso, visto così, dall'ottica di uno che è chiaro, un revisore dei conti. E quindi quello. Allora, in questo modo noi. Praticamente che succede? Ci sarà l'economo centrale che però di fatto sarà, come dire, risponderà di tutto, non solo del suo fondo interno, che insomma è più basso per le spese, ma anche dei vostri. Quindi ecco, ci sarà bisogno, insomma, ripeto, dico questo perché sarà importante, come dire, fissare delle scadenze. Poi voglio dire, l'emergenza la risolviamo e la risolveremo sempre, però vi prego di rispettare le esigenze dell'economato, perché l'economato è quello che poi dopo risponde di tutto. Quindi se fuori stanno 150.000 euro sarà l'economo che dovrà rispondere di quei 150.000 euro. Quindi nel rispetto dei tempi nella rendicontazione online, e basta, poi dopo voglio dire la vostra gestione dovrà essere regolamentata. Noi purtroppo abbiamo bisogno di un regolamento interno, certo. E dell'economo mi pare che non c'è l'economo, non c'è tutt'oggi. La prima circolare parlava di 3 fondi di crisi per voce economica, sì. Sarà così? Ci sarà un fondo unico a cui si può aggiungere per tutte le spese. Non diventa più un problema di utilizzo questo o quel fondo, c'è l'unico fondo e con quello gestiremo le spese che devono essere poi dopo la voce economica è un'altra cosa, attenzione, l'utilizzo del fondo è una cosa, cioè le disponibilità sono quelle, poi la tipologia di spesa e quindi il capitolo di spesa è un'altra cosa, sono due cose separate. Capitolo di spesa dipende dalla tipologia di spesa, però voglio dire, voi considerate uno dei tetti diversi per tipologia, cioè fino a 8 soldi per questo, fino a 8 per questo, fino a 8 per quello. Io avevo mandato una cosa e mi ero rifatto, questi sono importi ovviamente che abbiamo ripreso dal regolamento economale, quello generale di Roma Capitale. Però non proprio. Perché no? No, perché alcune voci che sono nella tabella che tu hai adesso segnato, sì, sono in senso generale, mentre in quanto stabilito dal commissario di Monaca si parla di per esempio 350 euro per volta, non indirettamente. Quindi per intervento, ce l'ho qui io la. Quindi non in totale. E dove sta scritto che era totale? Scusate, ma dove ho scritto io che era totale? Però non c'è scritto per intervento. No, allora però scusate. Allora io vi rimando al regolamento, cioè per gli importi vi rimando al regolamento quello economale, no? Perché noi perdiamo su questo. E poi diciamo a titolo, come dire, semplificativo vi do i dati, le indicazioni, ma qui non si parla di importo totale, anche perché totale su che cosa? Su tutto l'anno, su un mese, su un giorno, questo non è niente. Quindi è niente, è solo intervento. Allora questo è per l'intervento, mica c'è scritto totale. Punto, no, ma io può andare. Sì, però ripeto, non. Io perlomeno non lo so, se l'avete tutti intesa così, non. 350 euro si intende per intervento con fattura elettronica ovviamente. Sì, poi, però andiamo per ordine. Perché è un po' complesso. No, complesso no, ma guardate, noi dobbiamo andare per ordine. Allora, chiariamo un punto. Qui diciamo i limiti questi sono stati presi dal regolamento generale della ragioneria, del regolamento quello di Roma Capitale. Ovviamente si parla per tipologia d'acquisto, per tipo di intervento, non è un limite annuale. Io francamente non lo vedo qui, io leggendolo non l'ho intesa così, però voglio dire, può darsi pure che era poco chiara e adesso insomma lo chiariamo in questo senso. È tipologia di intervento, è evidente che poi dopo se io devo fare periodicamente un intervento a settimana di 350 euro, il discorso cambia. perché non è più una manutenzione piccolo intervento, ma è evidente che si tratta di interventi ben diversi, ma questo voglio dire, lo sappiamo perché... Posso farti una domanda? Dimmi. Semplice. Mi è successo di dover rifare tutte le copie degli armadietti, delle chiavi degli armadietti, per una spesa circa di 90 euro, che ancora non ho fatto perché c'era bisogno della fattura elettronica. Per 90 euro, una grande ferramenta vicino alla biblioteca, non mi faceva la fatturazione elettronica. Cosa dovrei fare? Ma per il limite dei 90 euro? Le chiavette degli armadietti, penso che l'avete questo problema. Se immagino è chiaro che la tipologia di spesa nulla deve fare basta. È chiaro che la tipologia di spese che parliamo, cioè questi sono i limiti, ma sono riferiti all'intervento, all'acquisto, ok? Ci siamo? Chiarita sta cosa? Scusa, una precisazione iniziale, se no poi parliamo. Sì. Questi 3.000 euro o 2.000 o 4.000 che sono stati, per che periodo sono? Perché tu hai detto semestrale. Ah, quindi semestrale il 3.000? No, è la rendicontazione. Ho capito, quindi però io... Scusa, se tu arrivi e rendiconti nei primi 6 mesi e spendi 2.800 euro, nella rendicontazione io ti reintegro i 2.800, non puoi dire che è durata. Poi se vediamo che questi 3.000 non sono sufficienti, cioè magari voi mi dite guarda io te li devo rendicontare prima perché materialmente li sto finendo, la rendicontazione la possiamo anticipare ai 3 mesi. Questo però non pone limiti, non detta limiti di spesa. Quindi io potrei un semestre anche spendere 6.000. 6.000. Ovviamente tu però non è che spendi 6.000, quando vedi che stai finendo i fondi chiami e dici guarda io te lo devo rendicontare prima, ok? Sì, ho capito, no, io pensavo che avendo scritto questi... Beh no, questi... noi però fissiamo dei periodi, sì. No? Poi abbiamo detto che è il primo anno, quindi diciamo la scadenza della rendicontazione la dobbiamo, come dire, tarare quindi quest'anno. Quindi diciamo la biblioteca che ha... Non è escluso che la, che ne so, la biblioteca Marconi non può rendicontare ogni 6 mesi, ma deve rendicontare ogni 3 mesi. Sappiamo, ce lo mettiamo a scadenza, quindi sappiamo che queste biblioteche rendicontano trimestralmente, queste semestralmente, e basta, insomma, se va avanti così. Diventa una procedura, come dire, organizzativa. Certo, non può essere lasciata, non ce la possiamo. Perché poi uno non è che poi il primo mese spende che ne so 6.000 euro. Beh, ma anche perché se spendete 6.000 euro non è una spesa che può essere, non è una spesa economale. Cioè, che ne so, sapere che più o meno tu puoi spendere 20.000 euro per ma io non lo sapete voi e non lo sappiamo noi. Non è che c'è un limite. Ma su dati storici, certo. Certo. E va bene, e quindi all'atto pratico noi come dobbiamo andare a rendicontare tutto ciò? Cioè, scusa, all'atto pratico come dobbiamo andare a rendicontare? Cioè noi dobbiamo gli incassi, vabbè, sappiamo benissimo, eventuali spese, quali sono le voci, quale fondo noi andiamo a... Allora il fondo è unico, cioè nella rendicontazione mensile, no? Noi come dobbiamo procedere? Nella rendicontazione avrai entrata 3.000 euro, fondo gestione spese, basta, non esiste fondo X, fondo Y o roba del genere. Dopodiché c'è l'elencazione di tutte le operazioni, per quelle operazioni ovviamente che sono necessarie per la gestione immediata. Questo però per la metà di febbraio. Questo per? Ma per capire dalla metà di febbraio quando noi avremo tutti gli effetti. Ma noi io spero adesso, non nella metà. Perché questo mese per esempio come la Ho fatto anticipo. Guarda, voi avete ovviamente presumo che avete anticipato i soldi, no? Però io adesso quando vi assegno lo otterriamo, da quel fondo voi recuperate e okay. Andate a coprire diciamo i soldi che avete anticipato. Scusa, se sono uscite a questo punto passano quelle di gennaio già passano per questo fondo, no? Non devono essere. Ah, tutto l'entrata sul fondo di scusa? Certo, sì, però nella rendicontazione, già quella di gennaio, noi mettiamo semplicemente, non mettete utilizzo fondi bibliocard, questo no, ecco, mette anticipazione. Anticipazione. No, le entrate, quella che finanzi. anticipazione, e le spese vai a elencare tutte le spese, quelle che sono state sostenute. Si parte da gennaio, però partiamo, anche se materialmente momentaneamente prendeteli dalle figlie, poi come vi do il fondo, come andate a coprire quello, cioè nel senso che quando poi mi rendiconterete gli incassi figlio casa di gennaio, mi dovete mettere l'esatto incasso, non utilizzare Che cosa non basta? Guardate, io spero francamente, io sta settimana, inizio della prossima, dovremmo aver chiuso la questione dei fondi, nel senso che c'è. Ma c'è, cioè, ma no, scusa, io non ho capito una cosa. Allora, il problema è che non c'è più una cosa che lei dice, i fondi bibliocar non mi bastano per comprare i quotidiani, ma siccome i fondi bibliocar vengono, come dire, incassati, sì, aspettare magari una settimana, se è possibile gestirla, bene, se no vediamo, faremo subito un anticipo. Io ma non c'è l'IVA, quindi loro non devono dare l'IVA. Io conto entro settimane risolvere questa questione, di risolvere la questione dei fondi, che poi tra l'altro è un problema con la tesoreria, perché devo fare un prelevamento di circa 110.000 euro, ci sono, mi hanno creato problemi di come si chiama, di riciclaggio, ci sono una marea di problemi. Io per me la soluzione migliore era riuscire a portare i soldi qui e voi venivate qui, però non escluso che tra le varie ipotesi ci sia un mandato dove voi dovete andare a ritirare in tesoreria questi, guardate, stiamo cercando di trovare una soluzione la migliore, però ripeto, vediamo come uscirne fuori. Fatti che vai in auto, ma non hai bisogno di andare in auto. Sì, ma in fondo, voglio dire, in fondo è uguale, poi dopo il mezzo. No, però attenzione. Non è questo il discorso. Tu non puoi fare riferimento al fatto che il precedente è chiamato 3.000 euro o 2.000 euro e poi dopo la spesa che sostiene. Cioè voglio dire, il tuo fondo da 3.000 euro può essere, diciamo, a te ti può durare 3 mesi. Quindi io te lo devo reintegrare ogni 3 mesi. La biblioteca magari più piccola gliela devo reintegrare, che ne so, ma non avviene più come in base al numero delle carte, cioè una biblioteca incassa di più può comprare più libri, può fare più cose, non esiste più, però vogliamo anche una cosa, se no è già complicato capire. No, dicevo solo di fare una volta, non c'è stato uno. Ma il libro, ci sono delle gare, no? La distinzione degli incassi, signori, va bene, ma fino a un certo punto, nel senso che voi, io ho capito, purtroppo è un discorso partito male dall'inizio, cioè proprio è una delibera che è sbagliata, secondo me. Quando si dice gli incassi video, guarda, poi andranno a finanziare, autofinanziare. Non è possibile. Non è legale. Poi che alla biblioteca a me servano più soldi per finanziare o per fare altre cose. No, ripeto, proprio per essere chiaro su questo. Diciamo che eventuali, come dire, progetti in più, spese in più, dovrà essere fatto tutto centralmente, riconosciuto, ma non legato, diciamo, al parametro delle condizioni. Quello può essere un dato indicativo e secondo me positivo perché, come dire, significa che c'è una maggiore affluenza. la promozione delle bibliotech in questo modo, secondo me, Ma questo è sbagliato. Però sembra un po'. Bisogna ribaltare l'ottica. È difficile questa situazione. Ma questo si può continuare a dirlo, perché comunque resta di fatto che si deve reinvestire sulle singole biblioteche. Poi voglio dire, questo è un nuovo periodo, un nuovo anno, no? Voi mi direte se poi c'è stata differenza nel reinvestimento, cioè se voi di fatto avrete diciamo minore disponibilità, questo lo verificheremo. Alcune sì, alcune no, dipende. Sì. Probabilmente chi incassava più soldi per le bibbie. Beh, sentite, sentite, non andava neanche bene la telefonata che ricevevo alla fine dell'anno, io devo spendere per forza sti soldi. No, non ma esiste no. Alcuni due anni fa ricevevo perché pure lì è stato posto un blocco. Ma poi voglio dire, mica ha fatto pure in buona fede, per carità. Però era. Ma sono anni ti sto dicendo, ti sto dicendo. I soldi vanno dopo, non è stato. No, anni. Sentivo che devo spendere per forza i soldi. E non era così, non era. Cioè, allora parliamoci chiaro, quello che dovete capire è che i soldi che portate delle bibliche non sono soldi che poi vanno a finire nel calderone per le operazioni, è evidente che vengono, devono essere gestite nell'investimento, no, delle singole biblioteche, nelle varie biblioteche. Però voi cercate di capire una cosa, la vita della singola biblioteca dipende dalla vita dell'istituzione. Non fate ognuno che dice al nostro, perché non porta a nulla. Cioè, voglio dire, voi, scusate, io ve lo dico perché sono rimasto, come dire, provato dalla gestione dell'anno scorso, quando praticamente io ero andato lì per richiedere un finanziamento di 2 milioni che ci avevano assegnato e vengo a sapere che noi non esistevamo più. Questa è la verità. E allora siamo andati lì a trattare e evitare questa cosa. Scusa, dove non esistevamo più? Non esistevamo, eravamo stati riassorbiti da Roma dal dipartimento. E che sia chiaro per tutti, perché arrivava. Certo, sì, ma questo è stato fatto, lo sa là. Questo è stato fatto. E poi dopo voglio dire, dire anche, ma sì, tutto sommato a me, che me ne frega, conviene che arrivate al municipio. Per carità, ognuno ha la sua opinione, ritornare nel municipio è la morte di ogni tipo di attività. Cioè non pensate, qui stiamo ecco discutendo così, queste riunioni, ma ve le sognate proprio, perché nel municipio ci sarà la morte proprio dell'attività. Questa è la verità. Perché e l'operazione che si voleva fare era quella semplicemente cancellare l'istituzione. Beh, ritorniamo a 30 anni fa, quando eravamo servizio all'economia. Però dopo dovevi combattere con la ragioneria, quello del municipio, che poveraccio non c'ha la via, che non c'ha dipendente, che devi combattere che quello fino al giorno prima faceva le carte d'identità, che hai dipendenti e te danno quello. Fate un ragionamento anche qualitativo. Allora, io per carità è giustissimo, ognuno deve fare, come dire, tra virgolette, gli interessi della singola sede, perché ci sta, e perché voglio dire, è bello, ognuno, come dire, tiene alla piccola squadra, però pensiamola sempre in prospettiva generale, cioè è l'istituzione che deve rimanere in vita, se no così non se ne esce. Non vi preoccupate, nel senso che il fatto che voi date maggiore, c'è la sede che incassa più di tutti, dovete essere contenti di questo. Incassa più di tutti significa, noi non possiamo non tener conto, perché generalmente chi incassa più di tutti sono realtà grandi, quindi grosse sedi, no? E quindi è evidente che hanno necessità di come dire, attenzione particolare, ma sia per la manutenzione, anche se purtroppo poi non è proprio così, perché ci sono onestamente sedi che necessitano di manutenzioni serie e non siamo in grado di poterlo fare. Questo è il problema. Oggi non so se avete letto l'articolo sul Messaggero. No, sì, che cosa? Dice, no, ha un bell'articolo, insomma. Sì. Messaggero di Repubblica. No. Bello nel senso che c'è quello di Messaggero, molto chiaro. Ma l'argomento qual è? Non ho capito dell'articolo. Iniziale, perché mi interessava anche a me, se questo andiamo nel dettaglio magari. Sì, sì. Molto generica invece. Premesso, questa è una riunione che serve per fare punto su anche particolari criticità, cioè io gira da un anno e mezzo un regolamento economale nostro interno. Questo, infatti questa bozza questo regolamento. Gira, speriamo. Gira. Nel senso che io l'ho elaborato da almeno un anno e mezzo, però è evidente che adesso serve che venga, come dire, io l'ho buttato giù vedendo le norme. Poi è evidente che quello deve essere fatto più come lavoro di gruppo, di squadra. C'è qualcuno adesso che da un punto di vista, come dire, anche legislativo, mi vada a incrociare le varie norme e dirmi guarda che questa norma entra in contrasto con quella. Io l'ho fatto negli intervalli di tempo, insomma, voglio dire, più di tanto non riesco a fare, insomma, non vorrei che vengo sopravvalutato fino a questo livello, capito? Quindi però necessitava di questo, fatto quello da un punto di vista puramente normativo, poi dopo io pensavo a fare un'ulteriore riunione con i vari responsabili e analizzare le singole procedure, perché lì volevo mettere le varie procedure e quindi vedere con voi e dire guarda sì, questa va bene, questa però nel mio caso non va bene, quindi provare, come dire, visto che ce lo dobbiamo fare per noi, nel momento in cui rispettiamo le norme superiori, che sono quelle del regolamento economale generale, almeno poi dopo ce lo facciamo su misura per noi. Ma questa è una cosa che può essere molto responsabili, che in qualche modo, certo, prima ancora della, diciamo, della ratifica. Volevo fare prima il controllo, come dire, legislativo, sì, normativo, che è molto tecnico. Prima ancora di un'eventuale presentazione. No, certo, l'ha detto adesso. Ma l'idea era proprio quella. Arrivare all'approvazione finale dove tutti siamo consci e consapevoli di quello che c'è scritto là, tutto lì. Però non può essere fatto solo da una persona. Ma la figura dell'economo è importantissima qua. Stiamo lavorando. Perché con lui dovresti arrivare a... certo. Oltretutto... Perché l'economo ha la responsabilità. Questa ambiguità crea problemi non solo a me, perché l'economo fa parte della mia area, ma anche a voi, certo. Perché in qualche modo siete coinvolti nella figura di economo, esatto. E non va bene. Ma anche l'incasso Bibliogard è fuori legge, perché tu dovresti, a fronte di un incasso, dovresti rilasciare una ricevuta. Su quello siamo, diciamo... L'abbiamo sorpassata? Sì, siamo esentati. Diciamo che meno male. La rendicontazione che facciamo mensile andrebbe forse... No, non è vero, perché quando per esempio il professore che può scaricare le tasse dalle cose mi ha chiesto la ricevuta dei 10 euro della Bibliogard. Lo può fare, ma non no, è... l'abbiamo allora, fatta, però a rigore dovrebbe essere... No, lui. Lo facciamo su richiesta. Va bene. Di fatto tu sei esentato. È evidente che se qualcuno ti chiede la documentazione, perché sennò come fare? La pezza appoggio. Risolviamo noi con la rendicontazione che facciamo mensilmente, forse andrebbe curata in alcuni particolari, ma quello lo vediamo. Con ricevuta magari, no? No, è una sorta di registro dei corrispettivi, okay. La rendicontazione sarà. Quello è di fatto. Scusate, prima di entrare nelle singole voci volevo chiedere questo. Noi l'altro anno ci eravamo riproposti alla fine dell'anno con gli incassi Bibliogard comunque andare a comprare il tappeto per leggere, le attrezzature per... Allora, questa cosa si farà, non si farà, perché alla fine dell'anno con questi soldini forse riusciamo a comprare questa... No, stiamo parlando della produttività finalizzata. Esatto. In cui per la campagna, per la promozione del Bibliogard, noi abbiamo... Quella è la proprietà di sistema, la finalizzata era legata. Era legata all'acquisito. Sì, allora, però, se mi fate finire, era legata a due cose, erano gli scarti e la promozione bibliaca nelle varie figure, sì. Vi ricordate? Tra l'altro uno responsabile adesso entro febbraio, quando ce lo chiederà Ciaffi, dovremo fare la relazione su questa promettività, la finalizzata 2016. Noi avevamo fatto, come altre biblioteche, una promozione per esempio per comprare gli scaffali alla classe 600. Era una cosa, abbiamo fatto vignette, l'abbiamo promossa, poi niente. Rispetto a questa, come altre biblioteche, chi il fasciatoio, chi i mobili dei bambini, insomma, tra l'altro Rossana Menti ha fatto un bellissimo lavoro di recupero degli arredi per poter fare una gara. Su questo non so se tu ci puoi rispondere, ma di fatto noi abbiamo perso la faccia. Non è in vano, basta ci dire che non è in vano, perché se no è in vano, ci abbiamo perso la faccia. Allora, anche c'è stato, se non vale errato, una raccolta di novità, prima che ha fatto Rosanna, giusto? Perché questo? C'è l'elenco, perché? Perché è evidente che noi adesso dobbiamo fare queste spese, le dobbiamo fare nell'ambito di una programmazione precisa. Cioè non è, voi pure lì, non la pensate mai, mi serve uno scaffale, quindi io adesso esco, oppure qui l'ufficio sulla. Quindi nel riepilogo dei dati, quante poltrone servono? Per esempio so che c'è il problema delle poltrone ergonomiche, no? Giusto? È evidente, questo è un problema riscontrato in più. Ma quelli erano, quelli però erano complementi, non era l'arredo in sé, era la cosa che ti giustificava l'acquisto. Per esempio, le scaffalature, il fasciatoio per esempio. Voglio dire, non deve essere limitato a un singolo acquisto, ma sarà fatto nell'ambito di una programmazione e ovviamente di una gara. Ma questo era ovvio, che noi non potevamo comprare uno scaffale da casa. Quindi no, non è un lavoro perso. Stava all'interno della promozione delle biblioteche. E quello sarà fatto, solo che cosa avete meglio dire? I soldi si importavano. C'è, i tempi che c'erano. Ecco, come faceva la gara, dobbiamo da dire, che i tempi erano. I tempi saranno. Beh no, speriamo insomma di... Entro l'estate. Entro l'estate ce la speriamo di sì, speriamo di sì. Diciamo perché noi adesso dobbiamo far fronte anche non solo a un problema di bilancio, ma anche organizzativo. Speriamo che entro l'estate si risolvano altri problemi. Quale la gestione, quale il CDA. Non passa, non è una gara. Fondo unico. Dovrà utilizzare questo, quindi l'entità del fondo, siccome da quello che ho capito sarà diversificata a seconda delle biblioteche. Ma no. Ripagazio o meno, dobbiamo essere autorizzati. Se io per esempio ho un problema di donne, voglio andarmi a comprare degli apparecchi, devo chiedere prima all'ufficio tecnico. La stessa cosa io farei sempre un passaggio con eventuali arredi, ma semplicemente per capire. Ma passaggio deve essere ufficiale o meno? Cioè, dove avere una lettera da lavoro che mi ha per capire se in ballo c'è una gara che si deve fare o no, insomma, molto, molto veloce in questo senso. Non è un passaggio ufficiale? No. Però rispetto a questo vorrei un commento che penso che serve a tutti. Allora, dobbiamo sistemare il lavandino, cosa che succede sempre, che viene otturato sistematicamente ogni mese. Possiamo autonomamente chiamare un idraulico previa comunicazione con all'ufficio tecnico di questo o... Io dico le manutenzioni non è previsto, l'unica cosa è che... Se c'è la gara, attiva! Se c'è la gara, se è coperto dalla ditta delle manutenzioni, è ovvio. Lo fa, e qui c'è anche il passaggio va fatto con l'ufficio tecnico. Se dobbiamo aspettare un mese, 20 giorni, la situazione comincia a essere un pochino... Se non possiamo fare... Se rientri nei limiti, lo fai. Però lì l'accortezza sarebbe quella comunque di, come dire... A quel punto è come se prendete in mano voi la situazione e quindi dire perché ho preso quell'idraulico? esatto. Devi essere sempre in condizione di poter dire guarda, ho sentito due o tre soggetti al mondo. Perché lo so, ma tanto questo no, che all'interno di questo intervento tu rispetta sempre il problema. Io Voi rispettate i limiti del regolamento, quindi all'interno di quell'importo, considerando l'urgenza più o meno, vabbè, voglio dire, se c'è una perdita del rubinetto, comunque può aspettare uno o due giorni, ma poi va a risolvere il problema. L'unica accortezza che secondo me sarebbe opportuno fare, magari, farsi mettere agli atti qualcosa che dimostri che comunque voi non vi siete rivolto, cioè avete comunque sentito due o tre opere. Cioè andate almeno su questa cosa, poi dopo. Anche per una piccola sentenza. Piccola, se non la fai, poi non è che succede qualcosa. Però, ripeto, se avete possibilità, fatelo. Poi, ma anche perché se magari riuscite a trovare un giro di 4-5 operatori, poi dopo voi lo sapete. Poi dopo magari lo sapete, se vi ricapita, sapete quei 4-5, richiedete a quei 4-5 e chi fa l'offerta migliore. Comunque sempre la preferenza di partecipare a un preventivo da più. Come si pagano questi? Loro possono anche rilasciare solo ricevuto. Il fondo economico. Ma se la devono fare ormai, non ti credo, facendo sì. Non è che ho visto la fattura normale. La fattura, scusa, questa è la frase del legatore. 180 c'è la gara. Ma sono le regole. Voi dovete semplicemente verificare se per quella tipologia di spesa c'è stata una gara d'appalto o è in previsione una gara d'appalto. Al centro, qua. E certo, perché se c'è una ditta che non una c'è una gara. Se non c'è la fare i famosi per se invece c'è, e se invece c'è bisogna chiederlo allora a qualcuno all'ufficio tecnico e dire guarda io ho questa necessità. Cioè, magari verificare se l'ufficio tecnico dice guarda. Da qui a 6 mesi non siamo in grado di poter far fronte a cose, allora ce la dobbiamo accollare noi, no? Scusa Stefano, è lunga, cioè ritorniamo indietro di 20 anni, quando la biblioteca Flaminia aveva il fabbro che aspettavi qualsiasi cosa perché ci avevi l'urgenza. Quindi una volta era 300, una volta era 30, sai, in mano al fabbro vicino. Sono problemi di apertura della biblioteca, di copertura dei servizi. Chiarire qual è il confine all'intervento dell'ufficio tecnico, cioè loro fino ad arrivare all'ufficio del nostro esatto, dobbiamo adesso indire prossimamente nelle prossime settimane la gara. Quindi in attesa che poi ci sia un affidamento, considerate che sono gare di un certo livello, il direttore ha dato un'indicazione di farla per 2 anni, è chiaro che ci vorranno dei tempi più lunghi. Allora in questa fase forse vi è richiesto questo impegno nel momento in cui si verifica un problema tecnico, lo so che è dispendioso, è difficile eccetera, però diciamo, la norma ce lo impone di richiedere questi preventivi. Successivamente quando ci sarà un appalto, però ecco, chiederemo però poi all'ufficio tecnico che redige il capitolato, e nel capitolato sono esplicitate tutte le varie situazioni. Quindi è chiaro che se una biblioteca ha un solo bagno e quindi poi come servizio pubblico non può garantire, è chiaro che in quel caso siete costretti a chiedere al singolo. Invece una biblioteca magari articolata su più piani, c'ha 2 bagni, uno lo chiude, un disservizio, però si chiamerà la ditta centralizzata. Questo poi va contro la legge, sicuramente su costi, poi anche dell'ufficio tecnico che gestisce il capitolato della nuova gara. Scusa, prima domanda. Questi preventivi, no, che noi dovremmo fare, devono essere poi sottoposti al visto del direttore, perché ti spiego, noi a ottobre, novembre, proprio riferendoci alla produttività, avevamo finalizzato di acquistare con le bibliocard un deumidificatore per una sala. Abbiamo fatto 5 preventivi, l'abbiamo mandati poi alla... all'autorizzazione, all'economato, poi al direttore, praticamente il visto ci è arrivato il 27 dicembre, quindi poi siamo andati in ferie eccetera, quindi a gennaio poi non ho acquistato questo deumidificatore. No, ma non si può fare questa cosa di andare in giro, tutto è transitoria, siamo andati, è un periodo di transizione. Il problema è che comunque rimane sempre il problema dell'importo superiore ai 30.000 euro, ma non tanto per i 30 euro. Non per un problema fiscale, quanto per un problema di regolamento economico, perché il regolamento economico di Roma prevede sopra i 30 euro la fattura. Allora, il problema qual è? Io ho mandato un interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo un'interpretazione proprio su questo punto. Perché c'è una circolare dell'Agenzia delle Entrate che dice che riferita però allo split payment, cioè sapete, no, quando pagate la fattura che l'IVA dobbiamo trattenere, non rientrano in questo tipo di tipologie, quindi alla trattenuta, quelle spese dove ci viene rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Ho letto una serie di articoli che molti, diciamo, prevedevano questa estensione anche nel caso per la fatturazione elettronica, cioè esentare quelle operazioni dove viene rilasciato lo scontrino fiscale e la ricevuta dalla fatturazione elettronica. E l'abbiamo inviata prima di Natale, massimo entro 90 giorni loro ci dovrebbero dare una risposta. Se ci rispondono, io spero, in maniera affermativa, avremo risolto tutto questo problema. Però al momento questo nessuno si può ricordare tutte le 100 cose che si è scritto in un modo o nell'altro. C'è un testo che vige adesso e ci mettiamo nel cassetto di porta giorni. No, non c'è un testo che vige, perché cosa vige? Regolamento generale superiore ai 30 euro di fatturazione elettronica. Una domanda, forse può darsi che sia una domanda. Per esempio, il giornalario, noi facciamo una ricevuta alla fine mese, sono circa 250. Certo, non ci abbiamo sempre fatto così. No, questo è perché sono giornali. In questo caso lui non ha l'IVA, quindi va bene. Sì, no, ma il fatto che non ha l'IVA non è. Un'altra cosa, faccio un altro esempio così poi chiudo. Un abbonamento che noi facciamo per un giornale, per una rivista che non è stata fatta centralmente, perché il giornalario non fai col bollettino, come fai? E il bollettino non mi fa la fattura, no. La maggior parte sono 34, 36, 40, in quel caso che posso fare? In quel caso, diciamo, c'era ultimamente proprio un articolo che sostanzialmente esentava, diciamo, da questo obbligo, perché lì in realtà c'è il bollettino, non c'è neanche la fattura, quindi... Ah, aspetta, quindi in quel caso possiamo fare? Sì, allora il discorso è questo. Noi in questa fase, finché non c'è una dichiarazione ufficiale, dobbiamo in qualche modo tamponare una situazione di difficoltà. Allora, però, ripeto, partiamo dal presupposto, teniamo in mente la regola generale. Superiore ai 30 euro ci vuole la fattura e allo stato attuale di fattura elettronica. Però questo mese fino a questo allora, però c'è da dire una cosa. Per gli acquisti che vengono fatti presso un negoziante, e quindi colui che rilascia lo scontrino fiscale, No, anche superiore. No, anche superiore. No? Comunque ti rilascia lo scontrino fiscale. Allora, diciamo la verità, non è vero che non può, che può rilasciare o una cosa o l'altra. No, no, quello, questo è... Chi vende al dettaglio deve, per legge, rilasciare lo scontrino fiscale. E su richiesta, la fattura che deve essere solo elettronica, punto. Non ci sono altre. Ma non è vero, non è vero, lo stanno facendo tutti, perché se no l'IVA non viene calcolata. Non devi aderire, è ovvio. Scusate, lui mi ha detto, io la fattura elettronica non la faccio. E allora adesso no, non vuole. Ma guardi, non la fa perché non la vuole fare, ma è come dire da me non acquistare perché non sono in grado di poterla fare. Esatto. Ma non esatto. Quindi quello che fino adesso. Se la solita cosa dell'evasione è come il posto, uguale. È vero, chiaramente il suo allegandolo con la fattura, però che attacca, no? Non può essere più fatto. Allora, non è che non può essere. Questo è un mezzo da. Allora, noi partiamo dalla regola generale, certo, che è sempre quella. Perché ho pensato a queste scamotage, perché la fattura, il rilascio della fattura è, come dire, dopo superiore ai 30 euro, è un obbligo che noi facciamo ai fini del regolamento economico, non ai fini fiscali. Allora ho pensato, dei mali scegliamo quello minore. E qual è quello minore? Noi ai fini fiscali non possiamo essere sanzionati perché ci hanno rilasciato lo scontrino, ok? L'obbligo della fattura a noi la chiediamo la fattura semplicemente perché c'è un obbligo regolamentare che c'è in fondo, ma il regolamento non ci dice che deve essere elettronica la fattura. La fattura elettronica è un obbligo fiscale. Quindi in questo caso abbiamo... Okay. Allora io che ho fatto? Ho riportato questa procedura all'Agenzia delle Entrate, nell'interpello. Ho detto, guardate, facciamo così, come avete fatto per lo split, che lo esenta, facciamolo per la fattura elettronica. No? Ovviamente questo supportato da articoli che sono usciti. Se loro ci danno l'ok su questo, perché loro entro 90 giorni devono rispondere. Se non rispondono, fin quando non dicono non va bene, però fino a quando loro non ce lo dicono, noi possiamo continuare ad agire per tamponare una situazione in aspetto di oggettiva difficoltà, ma non potremo mai dire, ah no, siccome io faccio così, non si può. No, questo è deve essere chiaro, perché dopo non diventa la norma fiscale, ma diventa la norma imperi, no, qui poi dopo. Sarà conosciuto da voi, non aspetta, cosa che non è da scegliere. Ho finito il suo ragionamento, quindi il classico scontrino e fattura classica è ancora accettato. Chiedere e, tra virgolette, pretendere la fattura elettronica. Laddove non è possibile, non se ne esce fuori, possiamo fare le cose. Però non stiamo rispettando il regolamento economico. Questo. Mi sembra che il piccolo sta a fare scontrino e fattura elettronica, perché lui stesso la fattura elettronica se la fa fare con la pizza, quindi non è in grado di metterla, diciamo, dovrebbe essere messa nello stesso in contemporanea, no? Quindi diciamo io ho esercenti. Allora, ci sono esercenti che la fanno, esercenti che telefonano al commercialista mentre mettono lo scontrino, altri che non sanno proprio neanche se loro, altri che il commercialista gli fa pagare 10 euro in più per una cosa. Soprattutto quello è il problema. Molti ci rifiutano. Esatto. Giustamente, perché se tu mi fai un acquisto di 50 euro, poi devo pagare 10 euro il commercialista, perché ma io lo capisco. La deve fare, però. Allora fa il nero, attenzione, allora se fa la fattura è di diverso, perché allora il problema è chi fa solo fattura probabilmente fa lavori al grosso, cioè nel senso che opera soltanto con altri operatori, non può come dire, esercitare la attività di controllo al dettaglio, esatto, la differenza tra quello. No, se lui fa solo fattura, evidentemente lui ha come tipologia di attività, fa soltanto a imprese, non le fa attivare il nero. No, no, ha sempre una domanda. E allora deve fare in realtà la sapienza fattura elettronica, ci faceva la regolare fattura e basta. Ma lo stesso non lo può fare. No, perché non c'è registratore fiscale. Però se lo fa a minuto, cioè anche al consumatore finale, bravo, ci fa la regolare fiscale. Ma la fattura elettronica va fatta, anche perché l'IVA viene versata direttamente, perché loro sono un grande vantaggio. No, no, vai a ingrossare una cosa, loro non possono fare le cose. Nella mia biblioteca, che ha un front office in un punto un po' buio della biblioteca, sono state montate delle lampadine speciali a basso consumo, particolari, dentro altrettante lampade abbastanza particolari. Quando si fulminano, e in genere amano fulminarsi tutte insieme, non è che perché c'hanno, vedo che hanno un tempo di... perché sono accese dalla mattina alla sera. Si tratta di perlomeno dai 120 ai 130 euro, perché sono un certo numero assoluto. Ognuna di queste lampadine costa intorno agli 8-9 euro. La grande cioè una grande ditta che è vicino alla biblioteca, si chiama Romana Elettrica Battistini, credo che ti serve anche tu, Aldo, ha due tipi di contabilità, uno per il dettaglio e uno per, per la grande distribuzione. Per il dettaglio ovviamente non prevede la fattura elettronica. L'ha previsto lei, cioè, è una questione, una decisione per cui io mi sono dovuta a comprare due lampadine oltre al giorno, con il rischio di essere accusata. Io capisco loro, perché è un problema organizzativo e quindi loro, come dire, se la sono aggiustata a malattia. Però io stavo al buio, era un'urgenza, e dire mi servono 110 euro per questo e a ricevere uno scontrino, la fattura elettronica, tanto quella non la fa per il dettaglio, secondo loro. Che devo fare? O fai l'acquisti chiedendo direttamente la fattura, però qua dopo diventa un problema di tu non devi pagare contante. Questa è la questione. Infatti loro mi hanno fatto parlare addirittura con il loro commercialista, perché loro mi conoscono da tanti anni, ci serviamo, a quel punto che perché è piuttosto economica fattura, questa azienda. Per vabbè, ma la norma se la so fatta come faceva la prima. Non è il caso. Se io vengo in vinta di anche, se io arrivo e richiedo la fattura, tu la fattura me la fai insieme allo scontrino, punto, non esiste. La fattura normale sì. Poi se sono un ente, devi farla. Lui non è obbligato a farlo. Chi non è obbligato? È obbligato. Chi vuole lavorare con me non lo so, però di fatto... Ah, perché io non te la vendo? Con il fondo di campi economari anche per fare delle attività, per pagare un operatore piuttosto che, oppure pagare delle spese di viaggio di un autore che viene ospitato per presentare il suo libro, ma viene da Milano piuttosto che da un'altra cosa. Ecco, questa era un'altra delle... Io credo, con Stefano, quando ero alle attività culturali, tante volte abbiamo dibattuto su questa cosa per dare, come dire, più autonomia, più possibilità alle biblioteche al di fuori delle attività. Ovvio che l'attività comunque deve far, diciamo, deve essere autorizzata, intanto. Cioè deve avere comunque tutti quei procedimenti che sono naturali rispetto all'autorizzazione, no? Quindi essere motivata, autorizzata e quant'altro. E ovviamente di avere un preventivo di spesa evidenziato rispetto a pago il consulente piuttosto che il laboratorio, piuttosto che i materiali del laboratorio, il viaggio all'autore o quant'altro. E quindi deve esserci questo con il referente, l'ufficio referente, con l'area, con l'ufficio referente, in questo caso quello delle attività culturali. Quindi una volta che ha avuto questo procedimento di autorizzazione, poi si vedranno quali sono le modalità. Però anche lì deve essere la persona, deve essere presa dall'albo, cioè avere lo stesso procedimento che si adotta per i procedimenti centrali, ok? Se è una spesa di viaggio, è ovvio che io ho preso un autore, sarà quello che mi sono andata a prendere sull'elenco del registro. È lui, perché a me mi serve lui, che sento il suo libro, e mi serve lui, insomma, non mi serve un altro. Se invece uno che viene a fare un laboratorio piuttosto che una rappresentazione teatrale oppure un concerto musicale, devo andare a prendere da quell'elenco le persone che sono. Quindi questa è un po', comunque rimane la regola generale. Poi le modalità di pagamento, diciamo, invece sono, come io riesco a pagare queste cose, sono diverse e rientreranno in quei procedimenti, in quelle procedure. Cioè, ecco, io voglio fare un po' anche chiarezza su questo aspetto. Le procedure che sono state elencate a questo documento, sì, mandato. Cioè, è quello che poi sarà quello più dettagliato, che è il nostro, diciamo, quello è rispecchia più l'andamento del generale, diciamo, la procedura generale. Quando sarà fatto il nostro, sarà ancora più a misura, diciamo, dei nostri bisogni. Bisogna sentire determinate procedure, io direi di più, però va bene l'autonomia, in questo caso la singola biblioteca che vuole organizzare l'attività culturale va tutto bene, però lì io non lo farei passare come una spesa economale, nel senso potete gestirla voi, ma va fatto un altro, quindi una determinazione gestita da voi. Però su quello se ne va, ragazzi, quello non si può fare. Perché questa era una delle cose che volevo fare. Se chi presenta il libro viene in aereo, praticamente come ma non è spese dell'aereo, allora, non sono le spese dell'aereo, cioè, no, io partirei a monte, cioè, io devo fare questa attività culturale, partirei da là, quell'attività culturale la voglio fare, la organizzo io, quanto mi costa, poi ci può essere il costo del tizio, le spese dell'arrogante, questo e quell'altro, però deve rientrare tutto in una determinata. Quindi non la possiamo gestire. Okay. E quindi, come diceva Anna, attenzione nella scelta delle persone, no? Poi può essere pure che un'attività culturale io devo prendere per forza l'artista X, no? Però su quello la presentazione del libro che è quello, magari quello devi fare un concerto e invece devi mettere all'interno. Poi vediamo da come è completo, magari su quello volete organizzare proprio una giornata particolare, cioè, insomma, però quello. Comunque va fatta una vedetta. Aspetta, no, io farei male. Anche su questo non c'è un contesto di spesa, cioè un taxi 20 euro lo pago con fondo cassa, un biglietto del treno da 30 euro. Ma poi dopo lascia stare come va. L'importante è che l'atto è stato fatto e il programma di spesa è stato fatto. No, noi ce lo facciamo una decisione da tutti. Possiamo darci una soglia sopra o sotto la quale si parla di Dio o non si parla di Dio. No, ma non è il limite di spesa. Ma deve essere una cosa organizzata. E se l'attività culturale comporta soltanto un rimborso spese del è chiaro che la fai nel contenuto. Non la fai all'eterno. Io sto parlando proprio quando c'è un soggiorno. Quando c'è un soggiorno, c'è bisogna che qualcuno ti faccia devo dare l'incarico al tizio. La presentazione del libro può andare dal ricevimento. Lui presenta il libro, magari organizza un ricevimento. Io con quello non è che faccio. Che faccio la determina. Sono io che compro i patrocini a sì, posso rimborsare la mia spesa del taxi e quant'altro. diverso è se io organizzo questa giornata in un modo e chiedo la prestazione di tizio, chiedo questo e chiedo quell'altro, lì è già un progetto culturale un po' più complesso e io su quello insomma farei una diversa. Discorso di sistema. Questo discorso che stiamo affrontando ora mi sembra un po' uno scherzettamento. Dobbiamo sempre ritornare però a far capo all'ufficio cultura, attività, alla responsabilità, che sennò ogni biblioteca che sviluppa la sua attività si chiama il suo pagatassiva, che fa sempre di cose, e torniamo a mentalità. È ovvio che l'attività della ma ripeto, stiamo parlando anche, voglio dire, se ci pensi, rapportato anche nella spesa della manutenzione urgente, è evidente che viene lasciata una certa autonomia alle singole biblioteche per l'urgenza e per la tipologia di spesa. Però, come avevo detto prima, se poi dopo andiamo a parlare di spese che comportano interventi un po' più seri, è ovvio che non viene lasciata la singola autonomia, ma bisogna sempre rapportarsi con le biblioteche. Nel caso delle attività culturali, è evidente che nella presentazione del libro uno può formare centralmente qui, ma poi se la gestisce da sé nella presentazione. Quando parliamo di un'attività un po' più impegnativa, bisogna sempre concordare con l'attività culturale, perché sennò diventa l'anarchia generale, seguire una linea generale. Poi nell'ambito, diciamo, di questa cosa, come dire, la singola, la piccola attività di presentazione del libro, che può essere carina lì per il posto. Poi ovviamente. Però ripariamo al fatto che le autorizzazioni richieste vengono date per attività a costo zero, e per costo zero si intende anche escluso il taxi, il treno, perché se no dov'è che troviamo un limite a questo? Dice no, ma viene da Perugia, costa solo 15 euro, ma se è a costo zero è a costo zero interamente. Se cominciamo a fare dei distinguo, rischiamo che poi diventa, come diceva giustamente lei, un po' l'anarchia, insomma, no? Ma poi io mi chiedo, io questo lo ribadirei, se siete d'accordo, salvo poi, se si vuole organizzare l'attività particolare, ovviamente si farà una procedura che si arriverà alla realizzazione dell'attività, però non sta qua dentro, insomma, ecco, perché altrimenti ci sfugge pure un po' di mano, insomma. Ma come abbiamo sempre fatto, la determina è sempre stata, no? Scusa, io ho il taxi, come si fa? Lui ti dà una fattura, lui ti dà ricevuta. La ricevuta. No, guarda, questa cosa che crea ansia, allora mi dà la ricevuta fiscale, c'è lo scontrino, c'è lo scontrino. Chiaramente noi parliamo di rimborso spese, rimborso spesa a piedi vista, nel senso che c'è una richiesta tua, il tizio, nell'ambito dell'attività svolta, delle spese sostenute per l'attività, ti fa le spese d'arte, Comunque diciamo anche per questa tipologia di attività parliamo sempre sull'occupazionalità, cioè noi dobbiamo tenere presente le norme fisse. Poi nell'ambito delle norme fisse ci può essere il caso eccezionale in cui ci lo parliamo e cerchiamo come risolvere, cerchiamo pure di essere elastici, però mai che diventa poi una norma fissa, una regola fissa, tipo quella della fattura cartacea, e quello dai spesso poi diventa la norma generale, non è così, che noi dobbiamo tenere presente qual è la norma generale. Poi dopo su quello forse la fattura che diceva la notizia della fattura, io non ho capito, questa fattura elettronica si deve esempio 110, perché la deve andare all'ufficio, perché lo deve pagare l'ufficio? No, lei non ce l'ha la fattura elettrica. Io no, quello non gliela fa. Perché la questione dell'IVA, ti ricordi? Cioè no, la fattura elettronica può fare non come vendita al minuto, quindi non rilascio, ma solo la fattura elettronica, quindi come istituzione. E allora quindi deve passare per forza centralmente. Passando centralmente io devo rientra con la fattura elettronica, quindi non c'è lo scontrino fiscale, quindi rientri nella split payment, quello che prevede che devo trattenere l'IVA. Quindi già lei non può pagare contanti, abbiamo pagato noi qui perché io trattengo l'IVA e ti do a me. Se deve aver capito, ecco, che cosa va in in quel caso va bene perché non è l'acquisto di tutti, non è successo, non c'è la riva da trattare, è un regime speciale. Come no? 50 euro. Ma solo loro non lo vogliono fare. E non ce l'ha. Cioè, puoi comprare però a quelle condizioni. Il problema è la fatturazione. Non faceva fatturazione. Che non lo vuole fare. Siccome c'è la gara centrale. C'è la gara. Abbiamo chiesto l'allargamento. La modifica stanno a fare un macello, è sempre spostare, considerate che noi quando dobbiamo spostare queste cose è come spostare una montagna. Cioè, però noi abbiamo macchine vecchie, esatto. Quindi probabilmente la ditta non ce l'ha. Dei toner non previsti nella lista, io non vedo, però per fare che lì è. Ma certo, abbiamo macchine vecchie, quindi quelli probabilmente non si forniscono. Sì, va bene, ma che è una fornitura decente quella che ci hanno fatto? No. Io avevo scritto che volevo la colla a tal dettaglio, che volevo il pedale, si è arrivata alla stessa. No, quello in base a... Quello in base allo sconto ti danno la roba meno buona. Non puoi mettere, quando fai la richiesta, non puoi mettere la colla e la marca della colla. No, devi mettere le caratteristiche. Comunque, no, Renata. Un capitolato, loro vanno a gara sul capitolato, sulla colla, non sulla colla coccolina. Renata, per quella ditta la CCG ha due cataloghi, uno per i ricchi e uno per i poveri. Noi siamo poveri. Allora, quando io ho chiesto, furbescamente non ho chiesto la marca, ma gli ho dato proprio la caratteristica tecnica, articolo per articolo. Te la dovuta dare. Guarda, se vuoi te la mando. Articolo, no, non me l'ha dato perché ha detto che non è quello il catalogo. Sì. Che era il catalogo online. Quello per i poveri. Va bene. Online. Ma l'ha detto la domanda, c'è un catalogo online. E lì c'è quello dei ricchi. Questo è il problema delle gare d'appalto. Però è anche vero che tu ci spediamo dopo che l'Europa dura la casa. Tutto vero, ma signori. No, è quanto dura la gara? Tre anni? Tre anni. È inutile. Io volevo chiedere anche a Stefano, insomma, perlomeno rendere esplicita la questione dell'acquisto materiali librari e DVD. Perché? Credo che ci sia una grossa difformità a seconda delle biblioteche sull'utilizzo dei fondi normali o fondi, sono chiamati fondi, per l'acquisto di mezzi materiali. Che dovrebbe essere sempre, secondo me, perché faremo, speriamo a breve, una nuova gara, essere acquisti occasionali. Non è che possiamo, credo, comprare con questi fondi 150 euro al mese, ma perché non hai fatto una gara per acquistare questi libri? Perché ovviamente se si comprano così occasionalmente, si comprano dal libraio vicino e tanto, quindi io volevo una risposta anche su questa questione, insomma, perché vedo che c'è una disponibilità. Quindi laddove l'operazione occasionale quindi ribadisci questa occasionale per un'iniziativa di una propone dei DVD che sono quasi fuori uscire dal mercato mentre non ha quelli che veramente servono. Tu sei costretto, allora direi che la prossima gara è con le discoteche per i DVD. Non accettano le gare, cioè, non possono fare gara. Bisogna trovare la discoteca laziale, no? È un caso. Garantire le novità dei classici anche per i DVD, come per i libri. Perché davvero, guarda, non sto facendo una cosa che io mi sono fatta girare. Abbiamo parlato con il rappresentante della Leggera e ti dirò di più. Perché gliel'ho detta questa cosa e sono la loro società che rifornisce la discoteca laziale. Allora perché non avete perché il mercato dei DVD è oggi c'è, domani non c'è. Se tu vai alla discoteca laziale magari loro hanno comprato 10 copie di quelli e non ordinano altro, è chiaro. Mentre invece sul mercato non c'è più, ma è esaurito, è un prodotto ad esaurimento. Un altro fornitore ce l'ha. Ma è il piccolo che ha il magazzino, non è la stessa cosa. Non avete capito, i DVD non possono essere comprati in gara, perché il prezzo varia di giorno in giorno. Anticipazione. In alcuni casi c'è la possibilità di gestire un fondo economale che verrà assegnato ad ogni biblioteca e che i responsabili prendono. E quindi non esisterà più la differenza tra un fondo unico. Questo fondo unico può essere gestito per singole spese e possono essere spese entro i 30 euro con lo scontrino per minutaglie, cose fino a 30 euro. Poi cose urgenti di piccola manutenzione, tipo adesso noi scassata il tappo della fontana, quindi abbiamo vedete un acquitrino all'interno della biblioteca? Fuori, però, quindi cose urgenti che libri. Non stanno nelle gare perché la manutenzione in questo momento non c'è e quindi si devono fare tre preventivi e fattura elettronica, giusto? Entro i 350 euro, giusto? Sì, per in questo caso il rapporto di sempre con l'ufficio tecnico per capire 350 euro se c'è 350 euro per la persona manutenzione 150 quella è elettronica per le spese di cose 150 per interventi per interventi se hai fatto il costo sempre dietro richiesta autorizzazione fino a 350 150 in esclusa così c'è scritto se c'è un'altra cosa no 350 per le piccole manutenzioni ogni utente improrogabile perché non possono essere Liliana sei pensierosa con le gare di manutenzione ordinaria giusto poi piccoli acquisti di libri Liliana, hanno cominciato per collegati a attività culturali o a vetrine tematiche occasionali e sporadiche sempre invece a 150 euro sta cercando i preventivi il principe ma è solo voi o anche solo l'impianto di riscaldamento solo voi tutto il palazzo. Solo la birra. Ma com'era? A gasolio? Quindi lo cambierà in metano probabilmente. L'arrivo del mese, questo decidiamo. E la caldaia. Cioè deve scassare tutti i pavimenti. Saranno 50 anni che non viene fatto. E poi ti rendi conto ogni 6 mesi, questo non mi è molto chiaro. 6 mesi, credo. Credo 6. Ma che significa? Ti rendi conto mensile, quello che ti rendi continuare a fare o no? Degli incassi, quello degli incassi, sì. Quello degli incassi. Quindi noi prendiamo la relazione e degli incassi. Poi dentro il 2 di ogni mese. Sì, questo è di incassi entro ogni mese e le spese. Dovremmo farla mensilmente, quello però previo accordo e appuntamento con il sistema. Generalmente io pensavo di fare una sorta di calendario fisso, ognuno sa bene o male quando portarli, capito? Cioè, vediamo un attimo, insomma, poi vediamo pure quanto è mediamente l'importo che dovete portare, insomma, questa ce la dobbiamo, come dire, quest'anno ce la aggiustiamo meglio. Ce l'avete la cassaforte voi? Qui sì. La gettoniera serve? No. Ma perché non la eliminiamo? Noi abbiamo una storia, siamo che per fare una gara del genere è molto particolare, io dico la verità, ancora non ho capito bene il meccanismo, perché sia io ma adesso Isabella ce la siamo ritrovata sta cosa. Io ho pensato di fare una gara, no? E vedere sul mercato chi mette ad uso gratuito dei fotocopiatrici e poi dopo prende i soldi in base, no? Funziona molto bene. Pare che questo tipo di offerta lo fa solo la Cogeda, perché gli altri dicono tutti che te lo mettono a disposizione, però chiedono a garanzia un numero minimo di fotocopie. Quindi sostanzialmente è un canone d'affitto che ti chiedono, perché tu me lo puoi anche dire, guarda, io te lo do ad uso gratuito, però minimo al mese me devi fare 500 fotocopie, è come se mi chiedi di fatto un canone, quello è. Fatico a pensare l'offerta della Cogeda, non riesco a capire come. Cioè, voglio dire, oggettivamente, io ho visto gli incassi, guadagna poco. Allora la domanda è, dov'è che guadagna? Ma non è tanto perché dice, ma te che te ne frega? Ma no. È che però il problema che mi pongo io è perché pensa al problema che si pone chi eventualmente un domani verrà a fare un controllo e dice, scusate, ma perché l'avete data a loro? Perché fa offerta? E dov'è il... Io francamente non riesco. Loro dicono che sui pezzi di ricambio guadagnano. Sì, costano tanto. Ma i pezzi di ricambio di che cosa? Della fotocopiatrice? Sì, si rompe spesso. Si rompe, si rompe. Quindi diciamo, potrebbe essere che loro sulla manutenzione ci sono. Sì, sì. Perché le macchine sono vecchie? Le macchine sono vecchie, un po' robuste. No, sono vecchie, si rompono. Però la manutenzione è pagata. E la carta? Era pagata. Pare che la manutenzione, sì, la manutenzione la pagata. Allora, lì forse sarebbe a questo punto interessante capire, questo però io non ho i dati, cioè capire mediamente quanto abbiamo speso all'anno di manutenzione di queste macchine. Guarda, a me fanno circa 2 interventi l'anno di media. Il costo medio tu sai? No, questo non l'ho mai saputo. No, scusa, se noi non ci farà sicuramente molti di più, abbiamo 2 di macchine. Dico però, se dobbiamo fare le simulazioni con loro, che devono essere scritte le tecniche delle macchine, perché ci vuole assolutamente l'entrata USB. Per fare le fotocopie da internet, che la gente va su internet, si salva quello che si salva con la vendetta, poi dovrebbe stampare. Allora possiamo pure fare Dicendo, io vi faccio un attimo un giro, sì, a vedere quanto chiedono minimo di fotocopie, a vedere se effettivamente facendo sto conteggio, perché credo che chiedano, insomma, non lo so se 500, insomma vabbè, il minimo che chiedono, vedere se tutto questo di fatto poi ci costa di meno rispetto alle manutenzioni che sosteniamo. È evidente che in quell'altro caso però dopo chiediamo per contratto le macchine nuove, e la manutenzione a carico loro. E poi le macchine arriverebbero con questi dei giorni. Beh, ma non è che ci ho già discusso, perché loro non telecamerano le macchine. No, poi dice, però non possiamo conteggiare le fotogrammi fatti da Chiaretta. Ha detto, vabbè, cercare il contatore, non ci riesco, e quindi dice, non ci riesco. No, perché probabilmente le macchine sono vecchie e loro non le cambiano. E noi però non le vogliamo, no, no. Ma il problema è questo, cioè se io vado a vedere che con il numero minimo di fotocopie a noi ci costa l'ultimo una barca di soldi, ma perché, scusate, non le eliminiamo? Non c'è anche il discorso della dematerializzazione della... Beh, ma questo è per gli utenti, non c'è più per gli utenti. Poi scusate, domanda, servono a tutti, cioè fa comodo a tutti come servizio? Assolutamente sì. Anche per il fatto che non abbiamo più fotocorretrice interna, noi non le abbiamo più.